uscito mare, dimmi quanto tempo, quanto ancora. C'è di città nel deserto riposa, la vanità di non ti corri, ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvolto. Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione, tutto questo, fare prigione la mia vita, se se la sposa per un altro. I miei nemici siano liberi, io cado, io sono qui, che muoio per te, muoio per te. Nelle nostre storie senza amore. Non passo da Gerusalemme, io solo il miglio dalla luna, io sotto il cielo di milioni di stelle, ho cuore presso un pianeta lontano che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. Nemici più d'oro, e i reti miei di sabbia che vanno in fondo al mare. Io muoio per te, muoio per te. Di sorriente un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il pianto. Te voglio bene assai, le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene,

cup of coffee, a slice of bread, anything, man. Man, don't throw that to that dog. Hold up, wait, wait, hold up. Jeez, man. Treat animals better than they treat a fellow man. Oh, what am I doing tonight? It's getting cold out here. Thank you.

non ne ho più. Ho gli occhi fissi al cielo, pieni di pianto. Sento un canto, un rumore che cresce. Continua a cuore. Thank you.

juste qu'un peu sale des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres, comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman, m'offrent toujours une jolie chambre avec tirage, maman.Les hommes qui passent, je sens qu'ils ont le cœur à marée basse des envies d'océan. Les hommes qui passent, pourtant, qu'est-ce que j'aimerais en voler un pour un mois, pour un an. Les hommes qui passent, maman, ne me donnent jamaisQui laisse trace, maman. Les hommes qui passent violents sont toujours ceux qui ont gardé un cœur d'enfant perdant. Les hommes qui passent pourtant, qu'est-ce que j'aimerais en voler un pour un mois, pour un an. Les hommes qui passentLes hommes qui passent, amants, ont des sourires qui sont un peu comme des grimaces, maman. Les hommes qui passent, troublants, me laissent toujours avec mes rêves et mes angoisses d'avant. Les hommes qui passentQu'est-ce que j'aimerais en voler un pour un mois, pour un an. Les hommes qui passent, maman, ne me donnent jamais rien que de l'argent. Les hommes qui passent, maman, Qui su quel seno non liba amore. La donna non viene, vuole più nel vento, tutta la gente e i pensieri, e i pensieri. 请欣赏一组长笛和吉他演奏的世界名曲，曲目有《圣母颂》《绿袖子》《钟声的颂歌》《天鹅》《在马槽里》《好国王温西斯拉斯》《来吧来吧埃曼纽尔》。我们听到了空中天使的声音，《牧歌》《明天是我的跳舞日》《平安夜》《第一束光》《大地上的和平》。

今天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。